Tempo di sport. Per, direi, la crudeltà nel caso invece della Roma. Dall'altra però ci sono i numeri impietosi che dicono 3 squadre su 3 inglesi passate, che diventano 4 su 4 se ci mettiamo Liverpool Reale, se usciamo dall'ottica della sfida soltanto italo-inglese. La tabella che pubblica 24 minuti tra poco in distribuzione a Roma e Milano, gratuita come sapete, il pomeridiano è solo 24 ore. Titola Champions l'Italian flop, e ricorda che i 4 soli italiani che parteciperanno ai quarti di finale sono Oddo e Toni del Bayern, Rossi del Villarreal ed Ossena del Liverpool, che tra l'altro è anche andato in gol l'altra sera. Pubblica poi 24 minuti una interessante tabella curata da Nicola Filippone, che riassume come dal 2000 a oggi la nazione più presente ai quarti sia di gran lunga l'Inghilterra, e la squadra più presente sia il Manchester United con 7 partecipazioni. A quota 6 ci sono Barcellona, Bayern e Chelsea, a 5 Arsenal, Liverpool, Milan e Real Madrid, a 4 il Valencia, a 3 Inter, Juventus e un gruppetto con Lione, Porto e Deportivo. Per paese, la classifica per paese di presenza ai quarti dal 2000 a oggi vede l'Inghilterra con 24 partecipazioni, la Spagna con 20, terza l'Italia con 14, poi la Germania 8 e segue il gruppo. Questi sono i numeri televisivi parlano di 7 milioni e mezzo di spettatori per la diretta di Rai 1, con uno share del 25,86%. In diretta è andata Inter Manchester Inter, non la Roma. E poi ci sono varie altre novità, commenti, molto spazio oggi per i vostri interventi, e non vi dico quanti ne sono già arrivati all'indirizzo di posta elettronica, ne ho selezionati alcuni. I commenti di casa nostra in generale più o meno li conoscete. Io andrei a sentire subito quelli britannici, chiedendo oggi al ministro degli esteri una specie di rassegna stampa. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi. Ma da un lato c'è la giusta celebrazione complessiva da parte della stampa inglese, perché se da un lato noi dobbiamo un po' piangere, ma cioè, diciamo che non è cambiato granché rispetto all'anno scorso, per loro questi ottavi di finale erano tutto, non voglio dire routine, però diciamo che sono abituati, e le cifre che hai letto tu sono buone e fedeli testimoni, sono abituati ad andare decisamente molto avanti e come un solo uomo compatti, sì. Eppure questa volta, quindi diciamo che c'è la giusta celebrazione, non una grande enfasi perché siamo solo agli ottavi di finale, c'è ovviamente l'attesa per quello che probabilmente potrà essere uno scontro tutto inglese, visto che insomma 4 su 8 vanno nell'una di Neon, quindi è possibile addirittura che ce ne siano due, ma insomma comunque uno è molto probabile, è probabile anche zero, ma però se lo aspettano almeno uno scontro. E poi c'è naturalmente il bersaglio Mourinho, perché Mourinho comunque da un lato ha una popolarità che è infinita e quindi gode dei titoli maggiori, e da un altro lato è vero che quando Mourinho perde comunque la stampa lo sottolinea in maniera decisamente enfatica, come è normale e giusto che sia. Certo, ma direi infatti, scorrendo un pochino questi titoli, che avevano semmai infierito di più prima, preliminarmente, no? Con queste ironie di cui facevi cenno anche martedì sul nostro calcio, su sdentato, no? Che non sa più mordere, eccetera. Stavolta riconoscono. Complessivamente si hanno riconosciuto certamente un miglioramento rispetto alle gare d'andata. Devo dire che rispetto alla nostra stampa, quella inglese ama un po' di più provarci anche in anticipo, sì. Prendendosi a volte delle sberle sonore, non è stato questo il caso, però effettivamente a loro piace un po', ma non solo a loro. Io ricordo anche la stampa tedesca ai mondiali del 2006, ricordo il giorno d'Italia-Germania, la Bild titolò "Arrivederci pizza" alla vigilia della semifinale. Poi invece la pizza rimase lì, sì. Titoli che noi italiani forse un po' più scaramantici non faremmo mai, e invece loro, sia i tedeschi che gli inglesi, ci provano, li fanno, questa volta gli è andata decisamente bene. Devo dirti Gigi che la partita forse più celebrata, l'impresa più celebrata rimane quella del Liverpool, perché quello che ha fatto il Liverpool, sì, con Real Madrid è certamente superiore a ciò che hanno fatto Chelsea, Arsenal e Manchester United. Certo, anche perché queste tre hanno vinto poi alla fine tutte e tre di stretta misura, e tutte e tre hanno sofferto comunque, perché non c'è discussione, mentre il Liverpool aveva già vinto all'andata a Madrid, cosa che non è proprio da tutti i giorni, no, e poi ha ristravinto in casa. Credo che da questa rassegna stampa io tirerei fuori due cose in particolare. Uno è il commento dell'Independent, che è stiamo parlando di quotidiani di alto livello, che parla di Totti dicendo che ha giocato magistralmente, che il capitano a Roma è stato eccezionale, un talismano che ha diretto il gioco in posizione arretrata, una costante minaccia nonostante le sue condizioni fisiche. Infatti sembrava Enrico Totti più che Enrico Totti, no? Più che Francesco Totti, ma elogia la classe, il cuore di questo giocatore. Sì, con la freddezza di battere un rigore decisivo, di batterlo e di segnarlo con tutto quello che ne consegue. Cioè, Totti non gode di una stampa altissima a livello internazionale, anche per colpe sue, evidentemente, certo. Ma quando ha potuto ed è riuscito a giocare da Totti, mi ricordo un paio di partite a Madrid, la partita di ieri, comunque quando Totti è riuscito ad essere se stesso e magari a togliersi un po' di eccesso di pressione, forse questa volta lui stesso sapeva di non essere in grandi condizioni e probabilmente ha vissuto in maniera psicologicamente diversa, oppure semplicemente diventare padre di due figli, superare la trentina, gli ha dato una maturità che adesso gli consente di giocare meno partite ma di giocarle molto meglio, insomma. L'altro titolo non è sui quotidiani di stamane, sta cominciando a dilagare sui siti, non soltanto britannici ma anche sul nostro. Perché? Perché Mourinho è accusato di aver sferrato un pugno a un tifoso del Manchester United al termine della sfida dell'Old Trafford. L'incidente, leggo dall'agenzia uscita da poco, sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando l'allenatore stava per salire sul pullman della squadra nerazzurra. Come confermato oggi dalla Greater Manchester Police, un tifoso inglese si è recato più vicino al commissariato per denunciare l'aggressione. La polizia di Manchester ha chiesto i filmati del circuito interno, no? che controlla tutto l'Old Trafford per appurare la dinamica dei fatti. Al momento non c'è nessuna accusa formale se non l'esposto di questa persona. Quindi è un fatto che si chiarirà, è un fatto che loro stessi dicono non dovrebbe essere di particolare gravità, però vediamo, perché in campo si era visto molto, molto fair play sia da parte dei vincitori che degli sconfitti. Può darsi che poi i nervi siano saltati più tardi. Siano lasciati andare dopo. Certamente molto più grave quello che è accaduto all'Olimpico, dove c'è stato un assalto. Lo scrive oggi il Guardian, ma è già confermato da un portavoce dell'ambasciata britannica a Roma. Un gruppo di tifosi alla Roma, tifosi sempre si fa per dire, hanno fatto irruzione sul pulmino di un gruppo di tifosi che stavano recandosi allo stadio, e un tifoso dell'Arsenal è stato o accoltellato, versione più probabile, o comunque è rimasto seriamente ferito una gamba con i vetri del finestrino infranto. Altri due tifosi dell'Arsenal feriti, leggermente feriti nel corso di altri incidenti verificatisi in serata, sono stati medicati e dimessi. Insomma, in qualche maniera siamo riusciti a farci riconoscere, sì, anche stavolta. Purtroppo l'altro ieri ero stato forse eccessivamente fiducioso nei confronti dei tifosi italiani. Devo dirti che insomma, l'UEFA è molto attenta in questo momento, e il fatto di aver assegnato la finale di Champions League a Roma fa sì che il pubblico di Roma venga tenuto in una particolare considerazione e attenzione. Quando poi l'altro giorno parlavamo di possibilità per l'Italia di organizzare i campionati europei, non abbiamo toccato questo punto, nel senso che comunque l'UEFA è attenta sia alle infrastrutture ma è anche attenta ai comportamenti delle tifoserie, e insomma ultimamente non ci stiamo segnalando tra i migliori d'Europa, questo onestamente va detto. Anzi, a questo proposito l'UEFA non ha escluso, al momento solo non ha escluso, ma è probabile, l'apertura di un'indagine per coria, sfondo razzista a Torino nei confronti di Drogba. Il portavoce dell'UEFA ha fatto sapere di essere in attesa del referto dell'arbitro prima di ulteriori commenti. Dobbiamo affidarci ai suoi rapporti e a quelli degli altri delegati presenti allo stadio, ma se le accuse saranno confermate allora procederemo a una seria indagine. Questo è il commento ufficiale dell'UEFA. Vabbè, io credo che da questo punto di vista, no? Dal punto di vista del visto dagli altri, possiamo archiviare questo capitolo. Se vuoi sì, noi onestamente adesso è qualche tempo che dobbiamo essere noi a guardare gli altri, insomma. Ma restano degli ottavi di finale che, a parte il Porto, rimangono di altissima caratura, perché comunque quattro inglesi più il Barcellona, lo stesso Villarreal, comunque una buona squadra, lo stesso Bayern di Monaco, insomma, diciamo che l'Europa è rappresentata ad alto livello. Certo, manca una squadra italiana, e insomma, non avere una squadra italiana nei quarti è certamente grave per tutto il movimento. Le italiane non hanno pescato bene nell'urna, ma qualcuna diciamo che deve semplicemente battersi il petto, perché insomma, se l'Inter avesse vinto il suo girone sarebbe andata a prendersi il Villarreal. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Manchester United. Ed è lì il vero problema, non tanto la partita di ieri sera, che secondo me invece è stata giocata in maniera praticamente ottimale dall'Inter, di gran lunga la miglior versione vista da molto tempo a questa parte. Sì, però con 90 minuti non entusiasmanti nella gara d'andata. No, al contrario, anzi, quindi condizionata dai flop precedenti, ma non certamente da ieri. Ultima notizia da commentare, a parer mio, Blatter l'abbiamo visto inquadrato a ripetizione ieri sera nella diretta di Manchester. Sono preoccupato, ha detto Blatter, dall'altissima concentrazione di talenti che c'è in Premier League. I migliori del mondo vanno tutti lì e c'è uno sbilanciamento grave di valori, non solo, ha aggiunto, ma anche all'interno del loro campionato non c'è più equilibrio. I club più ricchi si prendono i migliori e le altre squadre non competono più per vincere, ma solo per sopravvivere. È sparita anche un'identità inglese, i club non appartengono più ai tifosi ma agli investitori. Tutto questo mi preoccupa seriamente. Mi pare che da questo punto di vista FIFA e UEFA, cioè Blatter e Platini, coincidano come punti di vista. Sì, mi domando solo dove abbiano vissuto, soprattutto sì, Blatter, certo, negli ultimi 10 anni, perché, certo, perché onestamente io mi aspetto questo ragionamento da mia figlia, che ha 3 anni e mezzo e che quindi probabilmente, svegliandosi una mattina, accorgendosi che il Manchester è degli americani, il Liverpool pure, che Abramovic non è particolarmente londinese, che il Manchester City è dello sceicco, ma da Josef Blatter sinceramente è un ragionamento che faccio fatica, cioè è tutto giusto, ma è particolarmente in ritardo, non capisco dove voglia arrivare, sinceramente. È chiaro che considerare l'Arsenal una squadra inglese è molto difficile, ma anche considerare l'Inter una squadra italiana è molto difficile, perché nemmeno più l'allenatore ha di italiano, quindi onestamente davvero faccio fatica a capire dove voglia arrivare Blatter, che è certamente una persona di raffinato pensiero, di ottime letture e di grande conoscenza delle lingue straniere. Non so da dove salti fuori questo ragionamento, perché i buoi non è che sono scappati, ma sono già veramente oltre la vallata. Assolutamente. Grazie allora a Fabio Tavelli. A voi, ciao Gigi, buona giornata. Ciao, chiudiamo questo collegamento. Tra poco inizieranno i vostri commenti e i vostri interventi. Io vorrei far sentire prima, perché credo che il dibattito fatalmente si sposterà più sul versante Inter che su quello Roma, che non su quello romano, ma insomma credo che almeno la voce di Spalletti vada ascoltata dopo questa, chiamiamola pure, beffa atroce dell'ottavo calcio di rigore fatale. La squadra, secondo me, deve essere fiera di quello che ha fatto, per quello che ho visto, per l'impegno, ma anche per la qualità che ha profuso poi durante tutti i tempi regolamentari e supplementari. Avrebbe meritato qualcosa in più e purtroppo è andata così, perché poi quando si va ai rigori e tutto sommato avevamo preparato anche quelli, perché poi la sostituzione in più all'ultimo momento da potersi giocare dentro la partita l'avevamo lasciata proprio per Montella, insomma si era cercato di tenere di conto tutto e purtroppo è andata così e bisogna imparare anche a perdere, perché come dicevo prima ai ragazzi dentro lo spogliatoio, quando si fanno di queste prestazioni, quando si vede questo impegno, poi bisogna essere tranquilli, essere fieri ugualmente, andare a testa alta, ecco. Questo sì, però rialzarla la testa per averla a buon diritto alta non è facile dopo una scopola del genere. Io credo che abbia ragione Spalletti a trovare questi motivi di autoconsolazione. Un altro lo aggiungerei tecnicamente, che è la grande partita di Riise, l'escalation di questo giocatore che era arrivato e per i primi mesi era stato uno dei punti deboli della Roma, ma proprio di quelli deboli in quella fase iniziale di stagione che ha staccato la Roma dalla classifica, insomma, che addirittura l'ha fatta precipitare verso il fondo. Poi un po' alla volta Rise è risalito, ha trovato posizione e tutto il resto. Ieri sera ha debuttato praticamente in un'altra posizione e ha giocato una strepitosa partita. Anche per questo e per come ha saputo gestire queste difficoltà incredibili di formazione e di organico, insomma, se c'era una squadra che meritava di più delle tre italiane è certamente la Roma, che è stata anche quella che è arrivata più lontano ed è stata l'ultima ad arrendersi. Torniamo in onda con altre notizie, magari arriveranno altri sviluppi di questa pretesa vicenda Mourinho, che poi non è detto è tutta da appurare, ma soprattutto con i vostri commenti e i vostri interventi. Antonio Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono Antonio. Volevo soltanto riferirmi a Mourinho, che per la sua coerenza, se volesse mantenere il vero significato di coerenza, se ne deve andare, perché gli errori si pagano. Lui ha detto certamente che chi sbaglia deve pagare, e lui ha sbagliato e deve andar via, senza dire tutto quello che ha combinato a livello di provocazione nei confronti di altre squadre che sicuramente ne hanno subito le conseguenze. Mi riferisco alla Roma, De Rossi, i vari altri giocatori punzecchiati inutilmente da un'arroganza più irreale, secondo me. È irreale. Un'arroganza e una prepotenza e una incompetenza, perché non si rende conto il signor Mourinho. Tenga presente che io sono interista, sì. Quindi si immagina un pochettino quando io sia incavolato, ma come me tanti altri italiani che forse anche per colpa sua non devono vedere una finale a Roma con una squadra italiana. Antonio, io penso che lei stia esagerando in maniera abbastanza clamorosa. Penso anche che questo sfogo sia da un certo punto di vista legittimo, perché arriva dopo l'eliminazione dell'Inter, sia per un altro verso intempestivo, perché arriva dopo la miglior partita dell'Inter anche in campo europeo. È ovvio che con gli errori commessi prima e con la sottovalutazione che è stata fatta da parte, credo anche di Mourinho, del girone eliminatorio, si è arrivati a questo, per l'appunto, mettendo l'Inter in condizione ieri sera di giocare finalmente una partita da Europa vera e da Europa ad alto livello, di pagare anche un discreto dazio alla sfortuna, cosa che fin qui non era mai accaduta, direi, né all'Inter né a Mourinho, insomma alla sua Inter comunque, e quindi questa miscela è difficile districarsi tra questi due dati, perché ci sono delle cose contrastanti. Io ho letto oggi, ho sentito già ieri sera Spondarai, e ho letto stamattina dei commenti e delle valutazioni di giocatori abbastanza ridicole perché troppo in negativo, perché evidentemente in questi casi si scatena il tifo, com'è il suo in fondo, no? che la porta a esagerare. Ma insomma, ho visto dei 4, dei 5, ho visto dei 5 a Ibrahimovic, non so, Gazzetta dello Sport, che sinceramente io non riesco a capire come si possa dare un insufficiente, per quel che vale, è una pagella, che sono sciocchezze certamente, ma non so come si possa dare un'insufficienza alla partita che ha giocato ieri sera Ibrahimovic. Cioè, secondo me c'è anche un discreto, non vorrei dire un tasso di incompetenza, perché sono sempre cose sgradevoli da dire, ma un tasso di se non altro di diotrie, ecco, molto molto elevato. Fabrizio da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto che sono un tifoso dell'Inter. Sì. Oggi si può dire che i re sono nulli, in quanto sia il presidente Moratti che Mourinho hanno, secondo me, molte ragioni per avere dei tempi. Il presidente Patti ha voluto una rivoluzione nel corso anno con il cambiamento tecnico. C'è una pessima. Fabrizio, la devo interrompere perché c'è una pessima ricezione. Spero che riusciremo a richiamarla. Il concetto era già chiaro, però non era davvero mandabile la sua voce per un problema tecnico, per un problema di collegamento, evidentemente. Io sento che, appunto, è vero che chi semina vento raccoglie tempesta, questo è un vecchio proverbio che, visto che Mourinho ha studiato così bene l'italiano, forse avrebbero dovuto ricordarglielo. Però certo, mi sembra che si stia un po' esagerando, perché il giorno della resa dei conti è troppo facile farlo diventare oggi, secondo me. Il giorno della resa dei conti doveva essere quando l'Inter è arrivata seconda in quel girone, perché la sconfitta di ieri sera intanto è immeritata. L'Inter è stata in partita per l'intero primo tempo, e direi che se il primo tempo fosse finito 1-1 era semmai approssimato per difetto per il gioco, comunque era il risultato del primo tempo. Ma andando anche sotto poi con il raddoppio nella ripresa, sarebbe bastato quel palo d'Adriano per far giocare gli ultimi 20 minuti al Manchester in tutt'altre condizioni psicologiche. Io credo che fino a 10 minuti dalla fine, quando anche cambiasse Zanetti al 40esimo chilometro di corsa, si sono arresi. E dopo quel cambio incomprensibile per mio di Balotelli con Figo, credo che soltanto allora, insomma, l'Inter si sia resa e il Manchester abbia capito di aver raggiunto la qualificazione, perché il Manchester ha sofferto molto più di quello che adesso potrebbe pensare uno che non ha visto e che commenta i risultati, come ho l'impressione ce ne siano in giro abbastanza. Enzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo fare un intervento riguardo le partite di Juve e Inter. Per quanto riguarda la Juve, non mi trovo d'accordo il titolo della Gazzetta: Juve hai dato tutto, qualcosa del genere, anche perché nel secondo tempo è entrato in campo ormai con la consapevolezza di non farcela, salvo poi l'espulsione di Chiellini che ha un attimino risvegliato gli ardori. Fosse stata così dall'inizio del secondo tempo, forse qualcosina in più si poteva fare. Invece per quanto riguarda l'Inter, ovvero lo specialone, sono curioso di sapere cosa dirà alla prima conferenza italiana che terrà in Italia, prima conferenza stampa che terrà in Italia dopo Manchester, anche perché lui all'indomani del sorteggio Manchester-Inter aveva già messo le mani avanti dicendo che Vidic avrebbe dovuto scontare due giornate di squalifica e non una. Guarda caso Vidic è stato quello che ha praticamente aperto la qualificazione al Manchester e niente, sono curioso solo di sentire cosa dirà in Italia, perché in Inghilterra certe cose non si è permesso di dire. Tutto qua, grazie, ascolto per radio. Non è vero, anche in Inghilterra Mourinho si era fatto riconoscere per tempo, stia pur tranquillo che si è sempre negato poco sul piano dialettico. Quello di Vidic è stato un errore abbastanza grave di Vieira. Stamattina Roberto Beccantini ricordava sulla stampa che, dato che Vieira in genere prende in custodia sui calci da fermo il miglior saltatore avversario, aveva già fatto un errore grave nella finale mondiale, perché era suo Materazzi quando pareggiò il gol iniziale di Zidane, e ieri sera si è perso Vidic proprio in una maniera pessima. Eppure io sostengo, lo so che è paradossale, che quel gol è stato quello che ha sbloccato l'Inter, perché prendere quel gol dopo 4 minuti ha significato scaricare la squadra da responsabilità, nel senso che ormai tutto era molto più perso, molto più perduto di prima, e la squadra si è sbloccata, e da lì ha cominciato a macinare gioco e a mettere insieme, a parer mio, una prestazione eccellente, ripeto, per quell'ora un quarto che è durata, insomma. Poi non poteva durare, anche perché oltre, perché la corsa scemava e il vantaggio degli altri con pochi minuti a disposizione era incolmabile. Da Grosseto ha chiamato Stefano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, io vorrei aprire una brevissima parentesi e avere una sua opinione circa, diciamo, Gianluigi Buffon. Non tanto per l'infortunio, perché ne ha pregiudicato il rendimento, l'abbiamo visto anche purtroppo l'altra sera in occasione del primo pareggio del Chelsea, ma quanto perché ho l'impressione che sia terminata un po' la sua carriera alla Juventus. Ultimamente nelle dichiarazioni, interviste, ho trovato certe dichiarazioni anche un po' svogliate, anche un po' non propense, come dire, alla carica, come invece avveniva una volta. Ho l'impressione che appunto sia terminata la sua così il suo soggiorno, fra virgolette, alla Juventus, anche perché ultimamente, se non sbaglio, mi è sembrato di aver sentito dire da parte di Buffon stesso che ci piacerebbe terminare la carriera in Inghilterra. Ora, fermo restando che Buffon stesso occupi un ruolo che è indispensabile per una squadra perché dà carica non solo alla difesa ma a tutto l'undici in campo, vorrei sapere se magari possa essere fantascienza o in realtà il fatto stesso che la società Juventus possa prendere in considerazione l'ipotesi di dar via Buffon per investire su Manninger e su un altro portiere. La ringrazio, ascolto la risposta. Grazie a lei, radio. Stefano, è la tesi di... no, non questa di Manninger, è la tesi di Tardelli stamane sulla stampa. C'era una lunga intervista a Tardelli in cui sostiene che forse per rinforzare la squadra sarebbe arrivato il momento di cedere Buffon, ovviamente di cederlo a condizioni particolarmente vantaggiose e anche con quello provare a rinforzare la squadra altrove. Quindi vede che qualche è un'idea o comunque una tentazione che si sta un po' facendo strada. Torniamo in onda con un bilancio della partecipazione dell'Inter a questa Coppa Campioni, che è il seguente: 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, gol fatti 7 e gol subiti 8. Allora, quando io sento che oggi si scatena la critica nei confronti dell'Inter, la capisco se parliamo di bilancio, ma l'avrei gradita, cioè l'avrei trovata più tempestiva prima, mentre invece quando prima facevo notare che era pazzesco che una squadra come l'Inter si fosse qualificata al secondo posto per il rotto della cuffia in quel girone, sembrava che commettessi dei delitti di lesa maestà. Mail su Mourinho, allora ve ne leggo 3. 2 sono molto sintetiche, la terza è lunga. Signor Gigi, diffidi sempre da chi esordisce dicendo premetto che sono interista, anzi protegga Mourinho dagli attacchi di costoro, scrive Elio Strazioso. Giuseppe Brizzi scrive invece: ora mi auguro soltanto che Mu non venga messo in croce dalla società, erano anni che non avevamo un uomo capace e carismatico come lui, lasciamolo lavorare, è il suo primo anno in Italia, i risultati arriveranno, lui per me è il migliore, giù le mani da Mu. Scrive Riccardo Urbani: ho un problema, non sopporto Mourinho. Non si tratta di semplice antipatia, che del resto potrebbe rimanere confinata nelle inclinazioni soggettive, ma di un fastidio per ciò che quell'uomo rappresenta, per il simbolo prettamente moderno che racconto. Ho letto parole sorprendenti a proposito dell'allenatore dell'Inter: slanci futuristi, impeto napoleonico, decisionismo tacceriano. I giornalisti del Foglio, quelli del filone della destra radical chic, quelli del politicamente scorretto, lo hanno iscritto nel loro pantheon e la cosa non mi sorprende. Ma dietro questo stile, questa comunicazione urlata che ti sbatte in faccia un'infinita mediocrità, venduta come fosse qualcosa di prezioso, rimane solo un incantatore di serpenti, un venditore di tappeti capace di impressionare le anime candide che non riescono a scorgere il grande inganno. Perché la verità è che quest'uomo come allenatore non vale un granché. Vedete quindi che la gamma di opinioni sul conto di Mourinho è vastissima. La mia è direttamente collegata a quest'ultima mail, ripeto, firmata, oltre che scritta benissimo, firmata Riccardo Urbani. Prima degli altri ascoltatori, anticipiamo oggi un pochino, anche perché c'è Fabio Cantadore alle tastiere, vecchio cuore rosso nero, e c'è una ricorrenza nel Sembra Ieri che Nicola Filippone ha scovato nell'archivio delle coppe. Sentiamo. Sembra Ieri. 12 marzo 1969. Il Milan di Nereo Rocco sbanca il Celtic Park di Glasgow e conquista l'accesso alle semifinali della Coppa dei Campioni. Dopo lo 0-0 di San Siro, i favori del pronostico erano per gli scozzesi, ma al 12esimo ci pensa Pierino Prati a cambiare l'inerzia del confronto. L'attaccante sfrutta un errore difensivo per involarsi verso la porta del Celtic e realizzare il gol che decide la gara. Il resto del lavoro lo fanno la retroguardia, brava a irretire il temibile Jimmy Johnston, e il ragno nero Cudicini, che guadagna la ribalta con una serie prodigiosa di parate. Dopo l'impresa di Glasgow, il Milan eliminerà anche il Manchester United e conquisterà la sua seconda Coppa dei Campioni, dominando l'Ajax nella finale di Madrid. E guadagnando, diceva Nicola Filippone, guadagnandosi anche Cudicini quella sera lo storico appellativo di ragno nero. Dunque, 14:37, torniamo agli ascoltatori. Marcello ci sta aspettando da un discreto numero di minuti da Milano. Marcello, buongiorno. Sì, Garanzini, però aspettare lei è sempre un piacere. Vabbè, adesso questa è troppo bella, grazie. E poi mi ha fatto venire la pelle d'oca con questo racconto qui. Io sono milanista, e purtroppo avevo 4 anni e non ho potuto vedere. Veramente non lo so, però va bene, dica. Vabbè, senta Garanzini, allora mi viene voglia di difendere Mourinho, mi scusi, però ieri quando è andato a stringere le mani nell'intervallo alla prima fila di tifosi del Manchester, la pelle d'oca. Voglio vedere se era Wenger che andava all'Olimpico a stringere le mani dei tifosi olimpici, cosa succedeva. Quindi tanto di cappello a Mourinho e soprattutto ai tifosi inglesi. Ma guardi che sul fumo Mourinho non è un problema, sai, il fumo sa come venderlo, come piazzarlo o come regalarlo anche ogni tanto, perché poi è di animo generoso, lo ha dimostrato regalando una bottiglia di Sassicaia a Ferguson, per esempio, oltre che stringendo con le mani. È l'arrosto il problema, secondo me, e mi sembra che sia il problema che sta cominciando a fiorare, non crede? Volevo dire l'ultima cosa, Garantini, sì. Disfatto del calcio italiano, metto il Milan, tutti, una squadra, facevo il calcolo, su 24 tra UEFA e Champions League, davanti, c'è l'Udinese, è ridicolo. La cosa che mi ha più deluso, volevo un suo parere, era l'eliminazione della Roma, perché secondo me aveva l'avversario più facile. Ok, la Roma era dimezzata, tutto quello che vogliamo. Vabbè, no, non sono assolutamente d'accordo. Attenzione, Garantini, che mancava nell'Arsenal Fabregas e sono fra i due migliori giocatori al Non c'è nessun dubbio. All'Arsenal mancavano due pezzi da 90, ma alla Roma mancavano anche i ricambi. Ha giocato in condizioni molto difficili ed è arrivata fino ai rigori di spareggio, addirittura non ai rigori, a quelli a oltranza, insomma, di più non si può chiedere. E poi, come sempre, ci vuole, insomma, bisogna mettere insieme tanti fattori. Io credo che nelle partite di ritorno tutte e tre le squadre italiane o meritassero di passare, o comunque diciamo che se la sono giocata in maniera tale che alla fine più o meno tutte e tre potevano anche meritare di passare, soprattutto Juventus e Roma e Juventus. Però queste partite durano 180 minuti e sui 180 minuti credo che questi verdetti siano abbastanza inappellabili, perché la superiorità dell'Arsenal sulla Roma all'andata era stata più netta di quanto non sia stata ieri, secondo me, quella della Roma sull'Arsenal, e vale per tutte le altre squadre. Il verdetto più paradossale è quello di Manchester, a parer mio, perché la partita di ieri sera doveva finire, io insisto, secondo me con un pareggio di gol, con un pareggio e dei gol, e quindi avrebbe qualificato l'Inter, ma è chiaro che la partita era andata, se finiva 2-0 nel primo tempo per il Manchester, forse anche 3, diciamo 2 sicuri, non se ne parlava più e non ci sarebbe stata la partita di ritorno in quelle condizioni. Quindi tutto va sempre calcolato sui 180. Bruno, Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. L'unica premessa è ringraziarla per la compagnia che ci tiene. Bene. E dopo le volevo fare una domanda. Ieri sera ho sentito un'intervista di Mourinho che ha detto più o meno queste parole: il Manchester ha 6 giocatori alti 1,90 e io ne ho solo uno. E questa è la chiave che ha dato lui di lettura. Mi ha lasciato molto perplesso questo discorso. No, ha detto questa, mi scusi un attimo, ha dato questa chiave di lettura a proposito del gol di testa iniziale, anche del secondo, ma soprattutto del primo. Sì. Non ho sentito la domanda che aveva fatto, ma ho se ne sono risposto, però mi è sembrata comunque una giustificazione un po' troppo così superficiale, a mio parere. Dopodiché, chiaro, la partita io l'ho vista, è stata una bella partita, tutto quanto, poteva essere il pari, poteva essere la vittoria di uno o dell'altro, in realtà poi il risultato finale è stato il 2-0 ed è stato un peccato per noi, perché comunque abbiamo perso una squadra che non è andata in finale. Però vedo quando fanno delle interviste Mourinho che quando è tutto buono va bene, è tutto bello, se gli fanno domanda un po' diversa dal solito si adombra ed evita la risposta, e questo è un peccato, perché sicuramente è un personaggio di grande spessore. Ecco. Boh, io che sia di questo grande spessore continuo a dubitare molto, anzi credo che un po' alla volta lo spessore lo si metta meglio a fuoco, ma come sempre come sempre è una questione di punti di vista. Io credo che sia arrivato il momento di parlarne come tecnico più che come personaggio, no? di Mourinho, e allora insomma, qualcosa comincia a essere discutibile. Ripeto, innanzitutto io ricordo le interviste del dopo Champions, girone eliminatorio, quando qualcuno si permetteva di far notare, dice, ma com'è che con la Nortosis o com'è che con il, come si chiama, gli altri Palatinaikos, cioè, e questo ganassava con questa sicumera, no? Dicendo ma siamo primi qui, siamo primi là, eccetera, e invece è lì che si è pescato il Manchester e se l'è pure pescato con la prima in casa. Quindi ripeto, mi sembra un po' facilino adesso scoprire il qualche deficit tecnico di Mourinho, no? Perché secondo me c'erano degli ampi presupposti in autunno, ma ampi proprio, per cominciare ad avere qualche sospetto allora. Fabio Genova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, io volevo fare una considerazione su quello che è in realtà la gestione poi delle nostre squadre a livello di coppe. Nel senso che io sono un tifoso della Samp, che è una Genova, quindi diciamo un tifoso di quelli un pochino più poveri, diciamo, sì, rispetto ai nostri colleghi. Però non crede che la gestione dell'Inter, considerati per esempio gli investimenti fatti su Mancini, su Quaresma e tra l'altro anche sull'allenatore, abbiano spostato un po' il discorso a quello che per esempio è la qualità della squadra che poi scende in campo? Perché credo, avendo visto tutte le partite, credo che la differenza a livello qualitativo rispetto alle squadre, soprattutto inglesi, si sia vista. E quindi forse era da fare anche un'analisi sulla gestione della rosa delle nostre squadre che poi affrontano le competizioni, ecco. Ma io siamo sempre nel campo delle cento pertiche delle opinioni. Io credo però che se una società che l'anno precedente ha vinto il campionato ed è stata eliminata ai quarti di finale o agli ottavi di Champions dal Liverpool, decide di investire su un nuovo tecnico e questo nuovo tecnico chiede alla società uno sforzo complessivo di 50 milioni di euro per comprare due ali e un centrocampista, e poi questo centrocampista si sapeva già prima, a parer mio si doveva sapere che era di categoria, sto parlando di Muntari, ma in ogni caso insomma il suo posto lo può anche tenere, non è il giocatore che speravano all'Inter, ma la sua figura la può ancora, la sua utilità la può anche avere, ma è il flop degli altri due acquisti che mi pare qualcosa significhi. Ora, se sbagli gli investimenti e giochi un girone così deludente come quello con dentro a Nortosis, Panathinaikos e Werder Brema, poi mi pare che le tue responsabilità comincino a esserci a quel punto. Io vorrei anche chiedermi come si fa a lasciare fuori dalla lista UEFA un centravanti come Crespo, perché mi sembra uno che il vizio del gol l'ha sempre avuto e che in certe condizioni può servire. La presenza in campo di Vieira ieri sera è stata, direi, pochetto significativa. Vieira campa di rendita da anni ormai, io trovo, perché sta ciondolando con la sua macchina fotografica a tracolla da un po' di stagioni, anche nella nazionale francese, non soltanto nell'Inter e prima nella Juve, salvo rarissime partite. E, insomma, mi sembra tutte cose che, insomma, non è che si scoprono di colpo, no? Che Vieira non abbia più il passo o che sia comunque un giocatore, se non alla fine quasi, mi sembra abbastanza evidente. Un ascoltatore di Monza, Sandro Fabri, si domanda come si faccia a calciare un rigore come quello di Vucinic, ed è la stessa domanda che si fa Vucinic, perché dall'altra parte ho le agenzie aperte e Vucinic ha appena raccontato di essere tuttora sotto shock e di non sapere come gli sia uscito quel tiro, che poi non era nemmeno un tiro, quel passaggio centrale al portiere, dice di non saperselo spiegare nel modo più assoluto, e in effetti non può esserci una spiegazione, perché Vucinic poi è un signor attaccante. Ma è una vecchissima storia, la paralisi che può prendere chiunque al momento di un calcio di rigore, e quando dico chiunque ricordo i Platini, ricordo Zico, ricordo i più grandi campioni, Maradona stesso, cioè gente che gente che in teoria con una palla sul dischetto e un portiere a 11 metri non può darti margini di parata o di errore mai, e invece tutti hanno sbagliato dei calci di rigore, quindi anche Vucinic. Certo, sbagliarlo come Vucinic ieri sera non è semplicissimo, è indubbio. Marco, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Gigi, ogni tanto ci sentiamo. Dica. Concordo sulle due cose, sul tiro del rigore, che spesso e volentieri giocando a calcio la porta diventa larga un metro. E su Mourinho, visto che concordo con quello che dice, visto che a inizio stagione parlava della Champions dicendo che è una competizione che si basa sui dettagli nelle piccole partite, e penso che lui dei dettagli ne abbia tralasciati parecchi. No, il mio intervento era questo, semplicemente. Ho notato, secondo me, la grossa differenza tra le tre squadre inglesi e le tre squadre italiane nel confronto, proprio dal concetto di squadra. Mentre i nostri attaccanti vivevano un po', insomma, vedevo anche gli atteggiamenti di Ibrahimovic ieri sera, di Trezeguet l'altra sera, ieri sera, ma anche i giocatori del CEC, Drogba, Rooney, rientravano tutti dietro la linea della palla, difendevano in 11 nella propria metà campo. C'è un concetto di compattezza di squadra che le squadre italiane e il calcio italiano probabilmente dimostra di non avere, o di avere comunque diverso, ecco, rispetto al calcio inglese. La grossa differenza l'ho notata, secondo me, proprio in questo atteggiamento in campo. Anche. Aspetto una sua risposta. Grazie a lei, Marco. Sull'anche sono d'accordissimo. Ieri Rooney ha in due o tre recuperi nel momento più difficile per il Manchester, quando Maicon ha cominciato a spingere e quando era ben assecondato soprattutto da uno strepitoso Cambiasso, sugli inserimenti, che Cambiasso ha braccato alto il portatore di palla avversario tutta la serie, non so dove pigli quel fiato e quella forza, ma nei momenti migliori Rooney ha fatto un paio di ripiegamenti rimediando a situazioni non facili. Lei prima ha citato Trezeguet all'Equipe ha detto: la sostituzione io proprio non l'ho capita, sono deluso, vincevamo 2-1, dovevamo soltanto segnare un gol per passare ai quarti, bisognava magari cambiare qualcosa tatticamente, mettere un attaccante di più per forzare, invece l'allenatore non ha voluto, peccato per me e per la squadra. Benissimo, insomma, non l'ha presa, ma lo si era visto anche l'altra sera. Paolo ha chiamato dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. La mia domanda si riallaccia un attimino all'ascoltatore di prima, no? Questa differenza di condizione atletica, ma anche di infortuni a quel punto qua, con le squadre inglesi, o comunque con anche le due squadre spagnole che sono passate, cioè anche loro hanno dei campionati forse più lunghi dei nostri, hanno in Inghilterra hanno addirittura una coppa in più, hanno i giocatori che giocano in nazionale, in Inghilterra non fanno neanche la pausa invernale. Com'è possibile arrivare qui con le loro squadre praticamente a ranghi completi, eccetto l'Arsenal, e le nostre praticamente disastrate dagli infortuni? Ascolto per radio la risposta. Indovina la Grillo, nel senso che questo è uno dei grandi temi di questi anni. Io penso che alla fine abbiano una superiorità complessiva che permette loro comunque, anche se appunto dovrebbero essere in teoria un po' più stanchi, un po' più frusti, permette loro comunque di cavarsela meglio. Poi che corrono di più o di meno, insomma, dipende dalle squadre, dalle situazioni, dal tipo di partita che si crea. Non dimentichi mai quello che continua a ricordarci chi ha fatto questa doppia esperienza, chi conosce ben da vicino il calcio italiano e il calcio inglese per averci giocato, per averlo allenato. Sto parlando di Vialli, sto parlando di Cappello, sto parlando di gente di autorevolezza assoluta, che sostiene che in realtà la differenza vera è lo spirito con cui lassù interpretano il calcio, e cioè la mancanza quasi assoluta di stress, che è invece esattamente quello che divora i giocatori nostrani, e questo significa mancanza di recupero, e significa accumuli mentali e psicofisici che poi si ripercuotono e pesano. Provincia di Pavia, Silvio, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Una cosa veloce: io sono un tifoso interista, chiaramente amareggiato e triste per la serata di ieri sera, ma non arrabbiato come in passato dopo le umiliazioni sul piano del gioco con Liverpool e Villarreal e Valencia, dove abbiamo perso anche la faccia fuori dal campo. Giusto. Mentre un'altra piccola riflessione, esulando dal caso Inter, volevo porre il discorso del portiere in Italia. Non vedo più portieri. Una volta eravamo famosissimi per portieri, non ce ne sono più. Tolto Buffon, faccio fatica a trovare un altro portiere giovane. È un piccolo sogno mio, scusa, l'ho interrotta, presto, magari sperando di toglierlo dal cassetto, vedere in televisione questa trasmissione che lei conduce per radio. Sarebbe veramente un sogno, guarda. Questo non è un sogno, per me sarebbe una condanna, quindi la ringrazio del pensiero, ma di questo proprio non se ne può parlare. È più facile che torni una grande scuola italiana di portieri, e sarebbe anche più utile, direi. Da Roma a chiudere, Carmine, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Io volevo fare una riflessione. Allora, noi ora siamo qui a parlare dell'Inter di Mourinho, ma comunque volevo riflettere che, come l'anno scorso, le squadre inglesi hanno sempre eliminato le squadre italiane. L'anno scorso siamo arrivati alla fase di eliminazione diretta con Milan, Roma e Inter. Il Milan è uscito con l'Arsenal, l'Inter con il Liverpool. La Roma, nonostante abbia superato il turno con il Real Madrid, poi è uscita con il Manchester. E le inglesi si sono solo e soltanto eliminate tra di loro. La stessa cosa la vedo anche quest'anno, perché oltre al Barcellona non vedo chi possa assolutamente eliminare una delle quattro inglesi. Beh, il Barcellona è una delle favorite per la finale. Io credo che il Bayern, ma non tanto per questi 12 gol, ma per così, che credo che potrebbe forse dare qualche fastidio. E tra le inglesi distinguerei comunque, perché altro sono Manchester e Liverpool, e altro mi è sembrato di vedere Arsenal e Chelsea. Ma è prestino, staremo a vedere. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.